distrutto tutta la mia vita precedente, perché poi non è che mi sono svegliato una mattina e ho detto basta, ho detto se io continuo così non vado da nessuna parte, morirò ricco e rincoglionito, ma probabilmente non me ne frega niente. Allora è bene che incomincio a costruire un obiettivo di tipo differente che mi permetta di fare quello che veramente è la mia aspirazione. La mia domanda è questa, che di solito una persona che ha un atteggiamento come il tuo, così nel mio immaginario, è poco interessata alle persone in carne ed ossa, mentre tu invece lo sei. Io non sono ancora perfetto. Questo cioè sembra un paradosso, perché voglio dire, una persona come te non dovrebbe interessarsi delle relazioni umane, dovrebbe ritirarsi in un posto e fare il suo lavoro lì. E proprio te, che invece con le relazioni umane ci viaggi bene, dico. Sarà un maldestino questo qui. Allora, c'è quel senso che ti dicevo del restituire una serie di cose, il motivo per cui poi comunque, questa è la teoria, nella pratica io sento che non vado avanti se non incomincio a restituire, ma il mio restituire è forse più incasinare la vita alle persone che non risolvergliela, perché nel momento in cui tu fai percepire a delle persone che la vita è una roba più così che non come quella. Fammi prendere Ada per darti come esempio, te la conosci, che è anche molto simile ad Annabella, per cui su alcune cose sono sovrapponibili. Quando tu distruggi la vita alla gente in questo modo, cioè gli fai capire che la sta buttando via, non gli stai facendo un favore. Normalmente non ti amano. Però, come dire, mi sembra un'onesta opera di restituzione. Quello che oggi mi rendo più conto ha senso fare è restituire queste cose a persone che sono già per un certo tipo di strada, perché se no. Gli devasti la vita, sì, e basta. L'inceppo che sento nella mia vita personale in questo momento è che se non incomincio a fare un'opera di restituzione, come dire, io sono un vaso troppo pieno, non riesco, c'è da scaricare, devi scaricare, devo trasformarlo, devo rimettere in moto questa trasformazione. Questa è una cosa a cui sto pensando, a cui mi sto arrendendo come idea, ma se mi chiedi non lo farei, cioè se chiedi a me, per me è tempo perso. Però ho capito che non è così il mio punto evolutivo. Io credo sia un discorso di punti evolutivi, perché poi noi possiamo avere tutte le teorie del mondo, ma sicuramente il sentiero spirituale è un sentiero, io sul linguaggio lo capisco, questo metterei altri termini, però è un sentiero che ciascuno di noi deve percorrere sicuramente da solo, questo non c'è dubbio, nel senso che la chiave è dentro di noi, non è fuori, L'altro ha una funzione importantissima, no? Come dicevi tu, perché ti funge da specchio, da sangha, da comunità, da aiuto, ha tutta una serie di funzioni, ma sicuramente quella strada e le porte le devi aprire tu. Per fare questo devi mettere insieme, e il mio punto adesso è, c'è una parte di comprensione intellettuale di un insegnamento, ma se non c'è una parte di esperienza di quell'insegnamento, tutto questo è inutile. Allora io quello che mi sento oggi è che devo equilibrare, cioè è come dire, ho spinto molto su questa parte, diciamo, di comprensione intellettuale, devo riequilibrarla con l'esperienza, col cuore. L'altra cosa mi viene da dire sono le due strade nel buddismo, dipende da qual è il tuo obiettivo, no? Perché sicuramente il praticante Hinayana, qual è l'obiettivo? È quello di raggiungere il nirvana personale. Degli altri, ma questo non è bene o male, sono due, come dire, la differenza rispetto alla caratteristica degli esseri. Non è bene o male, non è un giudizio che uno è inferiore, anzi, le scuole sono estremamente precise su questo, no? Non è un'opera di denigrazione, visto che il tuo è un obiettivo inferiore rispetto a io che sono Mahayana, allora perché quello è l'orgoglio, è esattamente l'opposto del lavoro che devi fare. Quindi sono due strade. All'interno ci sono gli uditori e i praticanti, ci sono vari, cioè gli insegnamenti spirituali cadono su terreni che sono diversi, quindi questo bisogna tener conto. E l'altro è, ok, io faccio la mia strada da solo per raggiungere l'illuminazione, ma poi per aiutare le altre persone, esattamente quella restituzione che tu, no? Allora io credo che noi dobbiamo equilibrare però un lavoro che è molto difficile, che è un lavoro individuale, cioè dico, la meditazione, il fatto di farla insieme può essere d'aiuto sulla volontà, ma il percorso all'interno della tua mente, perché questa è l'esperienza, lo devi fare da solo, questo sicuramente. Però questo non toglie il fatto che, come dire, l'altro può essere, gli altri possono essere di grande supporto in questo percorso, e può essere, se tu hai così coraggio, che il tuo scopo sia quello di arrivare, passare quella porta per tornare con, come dici tu, con un'esperienza talmente forte che gli altri, che può essere veramente di beneficio a livello profondo, a livello spirituale, alle altre persone. Questo è il mio scopo. Poi dall'altro c'è, come dire, la pochezza del nostro essere, perché sicuramente, cioè io credo che Gesù, Buddha e altri iniziati abbiano fatto grandissime cose, però noi, non so voi, non posso saperlo, ma io non ho simili realizzazioni, no? Quindi, però il lavoro è averle, e questo si può ottenere mettendo insieme anche le esperienze e ottenerle queste realizzazioni. E sono possibili. Sono possibili, sì. No? Però dobbiamo forse lavorare in termini anche, al di là delle differenze di linguaggio, in termini anche esperienziali. Non so, io sono molto su questo punto, perché sono sicuro che se fai dei lunghi ritiri, se lavori molto da questo punto di vista, quindi non solamente un lavoro mentale, ma un lavoro di esperienza, come può essere l'alchimia, lavori con i materiali, quella esperienza, sì. Ecco, io credo che questa allora sia, non escluda il lavoro poi che possiamo fare noi o che può fare lui, cioè non è esclusivo. No. Cioè io non le vedo come due strade che si... Perché il rischio, se adesso l'impressione, no, quando tu parlavi, il rischio poi è chiudersi in una logica un po' solipsista, no? Cioè, veramente. Cioè, perché il sentiero spirituale indubbiamente è qualcosa che devi... Come dire, una realizzazione tua, non è di un altro, no? Ma hai due elementi che sono importanti. Uno è perché lo fai solo per te o lo fai per il beneficio di tutti? Questo fa la differenza, nella motivazione. Il secondo è che gli altri sono essenziali per aiutarti in questo percorso. Cioè, come la morte, quando muori sei da solo. Il percorso è tuo e quando nasci... Però il fatto che ci sia qualcuno vicino che ti voglia bene, che ti aiuti, cambia, è importante. Cioè, in questo senso è il ruolo dell'altro. Quindi non le vedrei così contrappositive. E su questo punto di dove stiamo mettendo il nostro tempo, sì, questo mi colpisce profondamente da una riflessione che io sto facendo anche te. Veramente, dove stiamo mettendo il tempo? Cioè, ecco, se mi dice cerchiamo di trovare una strada che sia più efficace da questo punto di vista, questo è vero. Perché io in questo momento, in particolare anche perché mi vicende, mi sento un po' fermo. Cioè, nel senso che... sto perdendo un po' di contatto, non so, mi sento un po' in una situazione, non dico stagnante, ma un po' ferma, no? E quindi su questo, il tempo, dato che è poco, insomma, credo che dobbiamo un po' orientarci in una selezione di cose. Cioè andare, magari sarà un nucleo diverso tra noi, non lo so, non credo, questo può essere. Però, come dire, cioè io una giornata, per essere pratici, la vedo, sì, come leggiamo, impariamo, discutiamo, poi facciamo meditazione. E poi andiamo a fare un po' di volontariato. Cioè, questo è... No? Perché senza, insomma, tutti i grandi iniziati comunque hanno sostenuto l'importanza. Nel buddismo, per esempio, non il nirvana, ma la completa onniscienza, se non c'è la coltivazione del metodo, dell'aspetto metodo, dell'aspetto della compassione, non la hai. Compassione. Questo faccio. È il limite dell'arant, no? Cioè del realizzato nel sentiero inayana, che raggiunge nirvana, raggiunge la pace individuale, ma non è lo stato di onniscienza del Buddha. Gesù Cristo ha detto, senza amore non siete nulla, no? Quindi c'è questa componente. Poi come io posso entrare lì è un altro discorso, certo, come posso... Sono vie diverse. Vie diverse. Nel sufismo, per esempio, c'è una cosa molto bella da questo punto di vista, che è la riattivazione della fisiologia di luce. Nel senso, finché noi parliamo di amore, non abbiamo riattivato la fisiologia di luce, ancora non abbiamo... No, certo. Non sappiamo davvero di ciò di cui stiamo... È un'intellettualizzazione, se vuoi, perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza devastante. Infatti loro si rifanno alla sura della slacciatura dei sandali quando a Mosè è apparso il rovetto ardente e tutto quello che gli è successo semplicemente come esperienza mistica in quel momento, che era talmente sconvolto che gli altri non riuscivano a guardarlo in volto quando è sceso dal Sinai, tra l'altro, terra di luna. E questo ci dice che quando noi parliamo di amore ne parliamo sempre soltanto in una maniera molto intellettuale. I più grandi mistici, sia ebraici che sufi, sono tutti morti in un attacco d'estasi, voluto e provocato. perché sanno perfettamente che se tu lasci andare, credo che questo avvenga anche nello Zen, se tu lasci andare il rapporto di compassione col creatore all'estremo, non torni più indietro, cioè è proprio un dissolversi lì dentro. Sì, poi bisogna capire bene cosa intendi per creatore o Dio, insomma, sì. Comunque questo poi... Vabbè, poi qui usiamo un attimino qualche discorso di Dio. Però sulla strada, quello che lui dice, ma non so, io lo sento nel senso che veramente, ma questo lo sappiamo, puoi aiutare l'altro nella misura in cui tu questa cosa l'hai già realizzata, cioè è un passaggio di esperienza. Per questo bisogna fare molto, forse, come dire, un po' di, un giro di volta, proprio sviluppare più esperienza in questo senso. Sì. No? E questo a me è chiarissimo. Però è il punto in cui credo che ci sia da lavorare. Per me è da lavorare sicuramente. Quindi non è tanto un accumulo di altre informazioni, eccetera, no, perché forse ne abbiamo già tante. Ne abbiamo troppo. Cioè proseguire questo, certo, lo studio, la conoscenza è importante, ma va equilibrato però poi con un'attività che io chiamo meditazione, che è un altro... Sì, sì. Cioè dare più spazio a questo, perché è vero che nel momento in cui poi tu hai assaggiato che cos'è la compassione, solo assaggiato è questo che puoi portare. I grandi di tutti i tempi lo dimostrano. Sì. Cioè se è una cosa che hai dentro la porti, se no non porti nulla, se non porti una conoscenza perché hai letto una cosa, no? Sì, se no è nozionismo, cioè può funzionare. Ecco, in questo credo che sia la via di oggi, perché sicuramente i tempi sono molto oscuri e forse quell'unica cosa che noi possiamo portare è un po' la nostra piccola esperienza. E non mi farei grossi problemi su che cosa e non cosa, perché porto quello che c'è, porto quello che ho, la tua restituzione, no? Dice, sì, sì, restituisco questo al mondo. Quello che ho, infatti, quello che ho da restituire, quello che non ho, no. Però questo credo che in gruppo, come quantomeno, possa essere più facile. Beh, se siamo qui dopo 15 anni, credo che qualcosa... Mettiamola così, proviamo a osservare questo tunnel, questi 15 anni come periodo, quanto e come ci siamo trasformati tutti e come ci siamo ritrovati. Beh, insomma, ecco, questo devo dirvi la verità, mi ha sorpreso notevolmente, il motivo per cui sono rimbalzato dall'altra parte della terra, a parte le vicende di vita materia, ma un po' anche questa cosa qui che mi ha agganciato. Perché ho detto, aspetta, qui c'è un senso che forse ancora non vedi, ma che ti può far cambiare alcuni punti di vista e cazzo, e vale la pena di capirlo e non di giudicarlo, non so come...